2024 di Enrico Pagliarini. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Questa è stata la settimana in cui WikiLeaks ha fatto un nuovo colpo. Ricorderete, il sito specializzato in rivelazioni di documenti riservati ha pubblicato quasi 9.000 documenti segreti della CIA, documenti che contengono dettagli su tecniche di hackeraggio usate per le operazioni di spionaggio. Il sito diretto da Julian Assange sostiene che la CIA abbia perso il controllo del suo archivio digitale, con il rischio di una diffusione incontrollata di malware e virus che possono finire in mano a stati rivali, mafie e hacker di ogni tipo. Vabbè, questo è tutto da dimostrare, vedremo poi se ci saranno informazioni a tal proposito. WikiLeaks ha detto che condividerà queste informazioni perché non tutto è stato pubblicato, alcuni dettagli tecnici non sono stati svelati. WikiLeaks dice che condividerà queste informazioni per far sì che le aziende che producono software e hardware possano aggiornare i loro sistemi affinché siano più sicuri e protetti. Per capirci, facciamo un esempio medico. Allora, immaginiamo che uno abbia creato un nuovo e sconosciuto virus. Se una persona usa questo virus contro un'altra persona, questa si ammala perché il suo organismo non ha contromisure, non ha anticorpi, e se si viene invece a conoscenza di questo virus è invece possibile creare un farmaco efficace. Ecco, più o meno è quello che in questo caso è successo, cioè venendo a conoscenza di malware, virus, di questi programmi malevoli che riescono ad attaccare sistemi informatici per spionaggio, le aziende possono proteggersi, quindi fare gli aggiornamenti. Però vanno fatte alcune considerazioni. La prima è che abbiamo scoperto che la CIA spia, e qui uno dice, beh, ci mancherebbe altro che la CIA non sia in grado di spiare e non sia in grado di spiare in modo efficace. La cosa interessante è che lo fa sfruttando tutti i mezzi e i canali possibili. Uno dei mezzi di attacco principali che sta diventando sempre più importante è la Internet of Things, la Internet degli oggetti. Tutti gli oggetti connessi alla rete sono potenziali porte di accesso ai sistemi informatici oppure alle nostre case, alle nostre aziende. E la CIA lo sa molto bene e giustamente utilizza anche questi canali. Quindi una cosa che va ricordata sempre più: bisogna occuparsi della sicurezza di questa nuova dimensione della Internet of Things, e a volte questi strumenti, questi oggetti connessi alla rete non sono tanto sicuri. Pensate tutto il grande mondo di Industria 4.0, stiamo digitalizzando processi, ma se questi non sono sicuri non va mica tanto bene, no? Quindi questo è un capitolo molto molto molto importante, anche perché in mezzo a questo mare magnum della Internet of Things c'è anche, non ci sono solo i servizi segreti che spiano, ma c'è anche lo spionaggio industriale, quindi proprietà intellettuale che viene carpita. Di questo parleremo anche più tardi nel corso della puntata. Altro capitolo, allora, i TV, i televisori. Si è detto che gli 007 americani avrebbero la capacità di trasformare i più moderni televisori connessi ad internet in videocamere o microfoni di sorveglianza anche a TV spento. Si sono dette queste cose. Allora, qui però bisogna smontare o comunque ridimensionare la notizia. Nei documenti si legge che questo si poteva fare solo intervenendo fisicamente su alcuni modelli Samsung del 2014, quindi bisognava che un agente segreto andasse nella casa target dove c'erano persone da spiare e facesse introducesse con una chiavetta USB del virus all'interno di questi televisori, ma solo in quegli specifici televisori che avevano una videocamera da usare con Skype. Poi questi televisori sono stati aggiornati e soprattutto visto che c'è anche chi ha detto, ah, adesso tutti ci spiano in casa mentre siamo davanti al televisore, una balla galattica, perché oggi non esistono in commercio televisori con videocamera frontale. Quindi se uno non ha magari un vecchio televisore con videocamera frontale, ecco, invece una cosa molto più probabile è che sui computer portatili che hanno una videocamera integrata, lì probabilmente un attacco hacker o un attacco di un servizio segreto potrebbe essere efficace per attivare la videocamera. E poi dietro a tutto questo clamore c'è anche da dire una cosa: se il tuo nemico è la CIA, Beh, non ci sono tantissimi sistemi per difendersi, perché la capacità di attacco della CIA, delle grandi agenzie di intelligence internazionali, è elevatissima. Stiamo parlando di fatto di software che viene utilizzato come un'arma, tant'è che ci sono delle società come Hacking Team, di cui si è parlato molto, che realizza questi software di attacco e li vende a stati, a servizi segreti, a polizie. Anche le autorità italiane li utilizzano, ma sono proprio paragonati alle armi e quindi devono essere autorizzati dai governi. Il governo italiano autorizza Hacking Team a vendere questo software ai governi di altri paesi o a forze di polizia di altri paesi. E di fronte a questa capacità, beh, cittadini e aziende hanno poco da fare. Invece bisogna avere un'attenzione in generale alla sicurezza, e di questo parleremo più tardi con una interessante chiacchierata che abbiamo realizzato con Corrado Giustozzi. Adesso alcune notizie in breve della settimana selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. Dunque, iniziamo dall'operatore satellitare Eutelsat, che ha scelto Blue Origin per i futuri lanci di satelliti a partire dal 2021. Però la notizia è interessante. Ricordo che Eutelsat è una delle più grandi società al mondo nel settore, e con la flotta di satelliti Hotbird, è quella che trasmette in Italia i canali satellitari di Sky, TVSat e altre TV. Blue Origin è invece la società di Jeff Bezos, fondatore di Amazon, ed è una delle nascenti aziende private nel settore spaziale. Anche se non ci sono ancora numeri dettagliati, il debutto della nuova console Nintendo Switch, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ha fatto registrare vendite record negli Stati Uniti. Switch sarebbe la console Nintendo più venduta nei primi 2 giorni dal lancio. Poi vedremo cosa diranno le società di ricerca indipendenti, che ci forneranno tra qualche settimana dei numeri più precisi. Parliamo di Apple, che con una pagina sul sito web italiano ha annunciato che è in arrivo, ma non si sa quando, Apple Pay. Chi ha un iPhone potrà anche in Italia associare allo smartphone una carta di credito Visa o Mastercard, oppure il conto corrente dei circuiti bancari Unicredit, Carrefour Banca e Boon. Boon è un servizio che non è ancora disponibile in Italia, ma arriverà molto probabilmente proprio in concomitanza con il lancio di Apple Pay. Questa è una notizia importante per il mondo dei pagamenti digitali in mobilità, vista la potenza di fuoco che comunque ha Apple, anche se ha circa il 15-20% del mercato, dipende un po' dai paesi, però è sicuramente un segnale importante, anche perché potrebbe essere l'anticipazione, diciamo, potrebbe essere prodroma all'arrivo di Samsung Pay e anche di altri sistemi di pagamento su smartphone. Una notizia che riguarda i venture capital, che continuano a foraggiare le aziende americane con un sacco di soldi, anche perché va ricordato che non sempre una buona idea è la base del successo di un'azienda, e non lo è nemmeno un buon team, ma ci vogliono anche capitali. Dunque, giusto per fare un esempio e per citare un'ultima notizia, riguarda Airbnb, che nell'ultima tornata di finanziamenti che si è appena conclusa ha raccolto $1 miliardo. Ricordiamo che Airbnb opera in 65 città e ha cominciato a generare utili nella seconda metà dello scorso anno, nonostante le crescenti limitazioni a cui va incontro in molte città, perché sapete che in alcuni paesi Airbnb, se in alcune circostanze estreme, è stato addirittura vietato, ma in molti casi sono state poste delle limitazioni. Dunque, quante volte abbiamo detto che grazie alla raccolta di dati possono essere prese decisioni più precise? C'è chi diceva, e mi piace sempre citare questo personaggio, Stephen Probst, che lavora in Teradata, che dice: dobbiamo passare da stomach-driven decision a data-driven decision, cioè da decisioni prese con lo stomaco a decisioni prese invece sulla base di dati. I famosi big data servono perché poi ci sono strumenti software, strumenti tecnologici che sulla base di questi dati prendono delle decisioni e ci aiutano a governare le aziende, o comunque, se non prendono direttamente delle decisioni, aiutano gli uomini a prendere decisioni. Allora, tutto ciò sta succedendo anche nel settore dell'agricoltura. Si chiama agricoltura di precisione, cioè utilizzare i dati per prendere decisioni più precise. E c'è anche un sottosettore dell'agricoltura di precisione che si chiama frutticoltura di precisione. Un esempio molto interessante ce lo offre Perfrutto, che appena ha concluso tra l'altro un aumento di capitale, una raccolta di fondi attraverso Mama Crowd, che è un servizio di crowdsourcing di cui abbiamo parlato recentemente, 2024. Vogliamo parlare di frutticoltura di precisione con Oreste D'Ambrosio di Perfrutto. Benvenuto a 2024. Grazie. Allora, spiegaci un po' di che cosa si occupa Perfrutto. Sì, frutticoltura di precisione. Noi in pratica prevediamo in anticipo i raccolti con delle misurazioni fatte sul campo che poi vengono implementate con un nostro algoritmo che è all'interno delle serie storiche. Noi riusciamo a prevedere in anticipo la raccolta e le dimensioni di pezzatura della frutta. Bene, allora, innanzitutto stiamo parlando di che tipo di frutta? Tutta la frutta del mondo? No, noi per ora ci siamo specializzati sulle mele, le pere, i kiwi e stiamo sperimentando l'arancio. Benissimo. Il vostro algoritmo si basa su dati storici di come si comporta quel tipo di frutta, cioè quanto cresce, in che tempo cresce, eccetera, eccetera. Voi che cosa date all'agricoltore? Noi in pratica gli diamo delle previsioni precoci, perché in pratica l'agricoltore con poche misurazioni sugli ettari che ha a disposizione sa in anticipo quanti quintali di mele, di pere, di kiwi riuscirà a raccogliere a fine stagione. Questo può essere sia un vantaggio per la grande distribuzione perché tu già vendi il tuo raccolto in anticipo, per la logistica perché tu sai quante persone devi impiegare, cassette di frutta, camion devi impiegare per... E poi noi nel mentre ti facciamo vedere anche le dimensioni della frutta come sta crescendo, perché nella frutta, in alcune frutte le dimensioni contano. Certo, certo. Tipo, quindi sai al raccolto quanto sarà grande una mela. Sì, sai le varie classi di pezzatura, sai che il 20% avrà un tot millimetri, il 30% avrà le dimensioni più elevate e questo naturalmente vale di più. Sì. Ti faccio dare alcuni dati di quanto sbagliate queste previsioni. 2-3%. Quindi siete molto precisi. Sì, e poi diciamo facciamo aumentare la produttività del frutteto dal 20-40%. Quindi voi dite utilizza la mia tecnologia e il tuo frutteto produrrà 40% in più di mele, di pere, di kiwi. Allora, qui davanti a noi, ovviamente non si vede, c'è un calibro. Un calibro, per chi non lo conosce, è un metro sostanzialmente, che serve per misurare, quello che usano anche i meccanici, no? Sì. Per misurare il frutto. Quindi voi date questo strumento che è digitale e dite, caro agricoltore, deve andare in giro per il tuo frutteto, misurare le mele. Quante mele deve misurare? Allora, lui deve, per ogni ettaro, deve misurare 20 frutti per pianta, 12 piante, cioè vuol dire 240 frutti per ettaro per ogni rilevazione. Ti faccio un esempio, un ettaro di mele ha 300.000 frutti, capisci che la proporzione stiamo misurando solo 240 frutti su 300.000 e noi ti diamo una previsione quasi vicino allo zero, cioè sbagliamo di pochissimo. Sì, sì, quindi l'agricoltore va in campagna, prende queste misure che sono archiviate digitalmente in questo calibro, si collega ad un computer che è collegato ad internet, carica questi dati con tutte queste mele, facciamo l'esempio della mela, possiamo usare anche altri frutti, e a questo punto l'algoritmo cosa dice all'agricoltore? Lui vede, noi abbiamo dato la definizione, vede il suo frutteto virtuale. Vede come sta crescendo la sua mela in pratica, se ci sono delle deviazioni rispetto a quello che succederà a settembre, se la crescita si è rallentata l'agricoltore capisce che deve fare un intervento o mettere più acqua, oppure diradare. Diradare vuol dire tagliare un po' di frutta e buttarla per terra, perché la pianta è troppo carica e non riesce a crescere bene. Certo, deve lasciare solo sì. i frutti migliori perché sì. diventino grossi. Sì. E quindi è anche molto semplice. Sì, è molto semplice. Poi noi consigli ne diamo, perché comunque noi vediamo il suo frutteto virtuale, però spesso è lo stesso agricoltore che fa gli interventi, perché sa benissimo come funziona il suo terreno e il suo frutteto. Certo, ma quando voi avvicinate l'agricoltore per proporre questa soluzione, qual è la reazione? Perché la reazione innanzitutto è quella: io ho fatto sempre così, soprattutto per i piccoli agricoltori, perché devo cambiare? Che cosa ne sapete voi? Sì, l'occhio, io ho fatto sempre un po' tutto occhio. E noi invece vi facciamo vedere che con la nostra sperimentazione facciamo un po' leva sull'aumento del raccolto, della produzione. Certo, e quindi aumenta il fatturato. Aumenta il fatturato, aumentano i soldi. Certo. Tutto questo, in particolare l'algoritmo che riesce a prevedere, a calcolare come cresce il frutto e quindi il frutteto, nasce da anni di ricerca all'Università di Bologna. Infatti noi siamo un po' uno spin-off dell'Università di Bologna, la facoltà di agraria. Certo. Senti, non si potrebbe fare tutto con lo smartphone? Perché uno deve usare un calibro, andare in giro, che capisco che sia sì. comodo, però diciamo spesso che ormai con lo smartphone si fanno sì, un sacco di cose. Si possono fare fotografie alla frutta. Sì, guarda, una linea di sviluppo è un po' l'analisi dell'immagine, però bisogna lavorare molto, perché noi col calibro misuriamo il millimetro, mezzo millimetro, perché la crescita da una settimana all'altra della mela. Dovremmo trovare un algoritmo così potente che possa vedere le differenze fra una settimana all'altra. Sì. E non è ancora, secondo me, molto facile. Bisogna cercare la tecnologia che sia potente e facile da utilizzare sì. e poco costosa. Lo smartphone è poco costoso, uno ce l'ha già magari in tasca, però non è ancora così preciso come vorreste. Come guadagnate voi? In pratica vendiamo il servizio 200 euro ad ettaro. Le grandi aziende sono più attente rispetto alle piccole? Sì, sono più attente. Abbiamo un paio di multinazionali che abbiamo preso, abbiamo il consorzio La Trentina lì nell'Alto Adige, che il Trentino è la terra delle mele in Italia. Sì, sì. Però sì, sono molto più attente, perché comunque gli interessa interessa di sapere i valori che succedono durante la stagione. Cioè, cose simili nel mondo? Perché stiamo parlando di una cosa che capisco sia intrinsecamente complessa nell'algoritmo, perché l'algoritmo nasce da studi di anni basandovi sulle serie storiche dell'accrescimento dei frutti, però da un certo punto di vista uno potrebbe dire: ma abbastanza semplice tutto ciò. Sì. Quindi nessuno ci ha pensato nel mondo. Noi li chiamiamo i comparable. Ci sono società che utilizzano tecnologie tipo sensori meteo, centraline per il terreno, che analizzano un po' analizzano un po' come sta andando l'ambiente circostante, però quindi non la frutta. No. C'è qualcuno che fa anche qualche algoritmo che fa la conta dei frutti, però l'accrescimento non c'è nessuno in questo momento. Però ti dico la verità, se arrivasse sul mercato qualcun altro che fa anche il nostro stesso mestiere, ben venga, perché così nel settore agricoltura aumenteremmo la tecnologia. Poi ci sono milioni e milioni di ettari dice c'è spazio per tutti, e se cresce la consapevolezza è meglio per tutti. Quanti clienti avete? E soprattutto queste tecnologie, perché stiamo parlando appunto di agricoltura di precisione, anche in questo settore la possibilità di raccogliere dati sempre più precisi e basare le decisioni su questi dati ed essere ovviamente più produttivi, più efficienti. Il mondo dell'agricoltura lo sta capendo? Sì, lo sta capendo, anche perché deve cambiare per forza, perché è l'unico settore che è ancora rimasto un po' indietro con l'innovazione tecnologica. E allora per forza si deve andare in quella direzione lì. Certo, non so se si parla di agricoltura 4.0, visto che si parla di manifattura 4.0. Industry 4.0, ma non ancora, non credo ancora. Ah, non ancora? No. Però diciamo all'estero è più sentito, c'è l'approccio migliore. Noi abbiamo anche dei clienti all'estero, dove viene capito di più l'agricoltura di precisione, la frutticoltura, rispetto all'Italia. Certo, questo sì. mondo chiamato anche agritech, sì. come il fintech, come tutte le sì. altre cose che... Bene, Oreste, in bocca al lupo, buon lavoro, a presto. Vabbè, crepi. Questa settimana c'è stato a Milano il Microsoft Forum, un appuntamento importante per fare il punto su tante tecnologie. E un tema di cui si è parlato molto è stato quello dell'intelligenza artificiale, che è un tema che sta andando anche molto di moda in questi ultimi mesi, ma è un tema su cui molte aziende stanno cominciando ad osservare gli sviluppi, e lo sta facendo in modo piuttosto determinato anche Microsoft. Ecco che cosa ci ha raccontato e soprattutto mi ha spiegato il perché anche Microsoft sta guardando allo sviluppo dell'intelligenza artificiale l'amministratore delegato di Microsoft Italia, Carlo Purassanta. Allora, è molto di moda, sì, però oggi ho tenuto a parlare di questo, di questa cosa, perché non tutti hanno la giusta interpretazione di poi che cosa sia l'intelligenza artificiale. Allora, io ho avuto la fortuna a gennaio di incontrare Eric Horvitz, che è il capo nel team di ricerca Microsoft proprio sul campo dell'intelligenza artificiale. Abbiamo passato 3 ore insieme fra una sua presentazione e poi una serie di domande, e devo dire che è stata un'epifania, nel senso che tu capisci quanto è ampio il campo, quante sottodiscipline ci stanno e che cosa vuol dire poi insegnare a questi computer a piano piano arrivare a quello che si dice la parità su tanti elementi che l'intelligenza umana ha in più al computer. Cioè, noi spesso confondiamo intelligenza artificiale con capacità computazionale. È vero che il computer è molto veloce, però il fatto di fare un calcolo non ha nulla a che vedere con la versatilità del potere intellettuale umano. Quindi il computer ha bisogno adesso di avere degli occhi, delle orecchie, una bocca, un cuore, delle mani, eccetera eccetera. Tutte queste cose sono altrettanti campi e discipline di studio molto complessi. In ognuno di questi elementi sono fatti e si faranno dei passi avanti, ma siamo ancora lontani dal fatto di mettere tutte queste cose in fila con la parità e quindi di raggiungere, no, questa equivalenza fra l'uomo e il robot. Però è un fatto che su tanti di questi campi ci sono stati dei progressi molto importanti. Quindi il messaggio di stamattina è: dobbiamo continuare a studiare, dobbiamo continuare a capire quali sono questi servizi e quali sono arrivati ad una maturità importante, e soprattutto come utilizzarli per continuare a fare la trasformazione digitale della nostra azienda. Voi, a proposito di aziende, vi rivolgete storicamente a, ovviamente, le grandi aziende, ma anche alle medie e piccole aziende. E che cosa c'entra tutto ciò con una piccola azienda italiana? Uno potrebbe pensare che qui stiamo parlando di tecnologie sofisticatissime. Allora, questo è un grande elemento, in effetti. Allora, una volta proprio questa capacità computazionale era molto costosa e quindi privilegio di pochi, quindi grandi ministeri, grandi banche e gli altri facevano un pochino con dei mezzi, no, più limitati. Oggi oserei dire quasi il contrario, cioè noi in particolare, fra tutte le aziende dell'informatica, siamo quelli che parlano di democratizzazione dell'intelligenza artificiale. Cosa vuol dire? Il paradigma del cloud, che è già un fattore potenza rispetto al costo incredibile, quindi già abbassa tutte le barriere d'entrata anche per una piccolissima azienda, ma soprattutto il nostro concetto è: questi servizi di intelligenza artificiale, quindi servizi cognitivi, servizi di analisi dei dati, noi li vogliamo democratizzare. Cosa vuol dire? Appena troviamo qualcosa di valore, lo mettiamo in un catalogo che è a disposizione di tutti, a dei costi o prezzi, se volete, estremamente bassi, che vuol dire che tu puoi comporre con questi pezzettini di servizio il tuo approccio all'intelligenza artificiale, il tuo approccio ai dati, la tua costruzione di piattaforma. E questo qui perché dico che paradossalmente aiuta più le piccole aziende, perché mentre le grandi hanno tante cose che hanno costruito negli anni, quindi tra virgolette più legacy, quindi devono trasformare anche l'esistente, devono capire come intrecciare le cose, al limite e paradossalmente un cliente più piccolo, lanciandosi direttamente nel cloud, ha accesso a una potenza infinita, scalabilità infinita e a tutti i servizi più moderni senza dover scendere a compromessi con delle cose esistenti. Quindi sì, si può fare il famoso, no, quantum leap, cioè il salto. Come sottolineavo stamattina, è importante perché la tecnologia è disponibile. Lì dove c'è molto da fare è sulla cultura, cioè il fatto che l'imprenditore, l'amministratore delegato dell'azienda investa tempo con lui stesso o lei stessa, con i suoi team, con delle persone esterne tipo università, centri di ricerca, informarsi, digerire, immaginare degli scenari e poi capire come la tecnologia può accompagnare quell'evoluzione. Questo è un pezzetto della famosa industria 4.0? Sì, ovviamente l'industria 4.0 volendo è più ampio, perché si va dal macchinario, cioè il macchinario stesso. Quando si parla di industria si pensa spesso a manufacturing, però in realtà è vero anche nel retail, è vero anche in altre cose. Però diciamo l'oggetto che fa parte della catena del valore dell'azienda, lui stesso può essere arricchito dal fornitore di quel macchinario con dei sensori, eccetera, eccetera. Ovviamente tutto quello va comunque collegato al cloud e comunque ci vuole un paradigma di machine learning da qualche parte. La verità è che si può fare innovazione anche su dei macchinari, dei componenti esistenti. Questa è una cosa molto importante. Industria 4.0 non vuol dire che bisogna rimpiazzare tutti i macchinari, vuol dire che per una parte del parco vai a rimpiazzare qualcosa, per altri semplicemente tu vai ad aggiungere una sensoristica, alle volte estremamente low cost, e soprattutto nel cloud prendi queste prendi le informazioni, le qualifichi, le metti nel cloud, le fai masticare al computer e hai la possibilità appunto di capire più cose, poi di prevedere il futuro e quindi di cambiare il tuo business model. Lei è d'accordo con chi dice che siamo di fronte a un mondo, pensando a molti imprenditori, un mondo estremamente complicato, ma il messaggio positivo è che non è che queste cose accadono nei prossimi 6 mesi, ci vorranno ancora anni, quindi possiamo organizzarci per capirci qualche cosa? Beh, diciamo che sì, c'è tempo e non c'è tempo allo stesso tempo, oserei dire. Allora, sì, l'intelligenza artificiale non è domani mattina, come dicevo prima, questa famosa parità dei vari servizi cognitivi, eccetera, arriverà nel tempo. Quindi molto spesso nei prossimi trimestri, anni, sentiremo l'azienda X ha raggiunto la parità sull'argomento Y. Per esempio qualche settimana fa noi abbiamo detto abbiamo raggiunto la parità sulla gestione del linguaggio, cioè noi oggi il nostro Azure capisce qualcuno che parla una lingua meglio degli uomini, e che vuol dire che lo può tradurre in qualunque altra lingua meglio di chiunque altro. Questa è, abbiamo raggiunto la parità. Se ne sentiranno tante altre, Google farà delle cose, Amazon farà altre cose, ognuno, IBM farà altre cose, ognuno scoprirà dei pezzettini di tutto questo grande panoplia di servizi. Allora, ho citato stamattina uno studio molto interessante che invito tutti gli ascoltatori a leggere. Il nostro appunto capo della ricerca Eric Horvitz ha stimolato l'Università di Stanford a lavorare su uno studio che si chiama 100 Years Artificial Intelligence, impulso nato nel 2014. Nel 2015 hanno riunito quindi un board e un panel. Il board è costante, il panel cambierà ogni 5 anni, e ogni 5 anni Stanford tirerà fuori uno studio sull'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo, che vuol dire impatto economico, impatto sociale, impatto sull'etica, impatto su una serie di fattori importanti, non fattori di contorno, fattori essenziali. Vuol dire i computer a che livello stanno rispetto all'uomo, quanto li aumentano, quanto stanno rimpiazzando dei job, cosa vuol dire da un punto di vista dell'umanità. Molto importante. Questo primo studio, che è uscito quindi nell'autunno del 2016, ha scelto come tematiche le cose classiche che noi sentiamo, no? Quindi il trasporto delle persone, la salute, la sicurezza, cyber security, eccetera. E racconta su 8 temi, non soltanto spiega le tecnologie, ma racconta su questi 8 temi come l'impatto si effettuerà nel 2030, quindi fra 15 anni, in una città media americana. Molto interessante. Allora, è un po' fantascienza, un po' realtà, quindi vedremo, poi alcune cose andranno più veloci di quello che c'è scritto nello studio, altre meno, però si comincia a vedere un mondo in cui tu sai meglio a cosa vai soggetto nelle malattie, quindi ti puoi prevenire piuttosto che curare, non ti devi più preoccupare di parcheggiare una macchina, scompare completamente il concetto di traffico e di parcheggio, cioè noi abbiamo semplicemente, come se fosse sempre una metropolitana, qualunque trasporto è automatizzato, non devo più cercare il parcheggio sotto casa, i veicoli fanno tutto quello che vogliono, ma non soltanto veicoli per strada ma anche droni, ecco, tutto questo scenario Stanford dice stiamo parlando del 2030, Allora, 2030 è vicino e lontano, sembra lontano, in realtà sono cosa, 13 anni? Non è tantissimo, per un'azienda che pianifica una strategia, se tu vuoi impattare nei prossimi 10 anni, vuol dire che non puoi più non tener conto di questi servizi di intelligenza artificiale. Quindi sì, c'è tempo, ma direi che c'è allo stesso tempo urgenza per capire cosa sta accadendo e come piano piano creare cultura digitale all'interno dell'organizzazione e cominciare a riflettere appunto al futuro della strategia. Bentornati, questo è 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo disponibili anche su Facebook e su Twitter. Per comunicare con noi potete utilizzare anche 2024@radio24.it. Vi ricordo che nella nostra edizione podcast trovate tutte le nostre interviste in versione integrale. Tra poco parleremo di cyber security. Adesso è con noi Simone Bonannini, che è l'amministratore delegato di Interroute, per parlare di come, grazie alla diffusione della fibra ottica, che comunque è una cosa che è vero per il nostro paese un po' più lenta rispetto ad altri paesi, ma inevitabile, e questo trasformerà anche il mondo delle telecomunicazioni. Bonannini, bentornato a 2024. Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Parliamo di connettività. Voi siete un grande operatore, un protagonista di quello che sta, di quello che succede dietro le quinte della internet, dico bene? Vero, noi siamo l'ossatura di lunga distanza, decisamente in Europa, ma anche intercontinentale. Questo ci dà la possibilità di avere un osservatorio privilegiato di quello che succede in ogni paese. Quando noi ci connettiamo ad internet, un primo pezzettino lo facciamo sui cavi del nostro operatore, poi probabilmente su uno dei vostri cavi. Decisamente sì, dall'inizio dell'anno mi occupo anche della Spagna, quindi non solo più dell'Italia e di altre regioni. Ho iniziato ad analizzare qualche dato e posso dire che circa l'80% dei dati che oggi escono dalla Spagna, direttamente o indirettamente, passano sulla rete di Interroute. Dall'Italia? Dall'Italia siamo ad una percentuale leggermente più bassa, perché la competitività era un po' più alta, ma sempre dell'ordine del 70%. Cosa sta succedendo là dietro, dietro le quinte della rete internet? Beh, senza dubbio la quantità di dati è destinata ad aumentare in maniera impressionante. Come lo si dimostra? In maniera abbastanza semplice. Ci sono alcuni progetti già operativi, quindi poi saranno accesi, uno in realtà dei tre è già acceso, che coinvolgeranno il sud dell'Europa e che danno indicazione di questa quantità di dati che aumenterà. Quando parli di progetti e di accensione, parli di cavi di fibra ottica. Parlo di grandi collegamenti sottomarini per collegare gli Stati Uniti all'Europa e il Far East di nuovo all'Europa, e questi coinvolgono appunto il sud dell'Europa, in particolare l'Italia e la Spagna. Il progetto forse più interessante è quello che va sotto il nome di Marea, un nuovo cavo realizzato da Facebook e da Microsoft che dagli Stati Uniti toccherà la costa nord della Spagna, in particolare a Bilbao. Che cosa significa? Che soggetti che non sono classicamente operatori di telecomunicazioni, ma che guidano la grossa quantità di dati che circola sulle reti, hanno deciso loro stessi di investire in infrastruttura. Cioè, un po' come Amazon che compra gli aeroplani per trasportare merci da una parte all'altra del mondo, degli Stati Uniti. È esattamente la stessa cosa, quindi soggetti che hanno un core business assolutamente diverso, ma che cominciano ad avere bisogno di una risorsa di un certo tipo, e da questo punto entrano nel mercato di chi quelle risorse prima le forniva. Beh, da un certo punto di vista però fanno concorrenza a voi e alle aziende come voi. Dall'altra parte però vanno a portare maggiori quantità di dati sulle reti di soggetti come noi già esistenti. Quindi, perché tutto è connesso. Tutto è assolutamente connesso. Quindi la nostra rete europea avrà sostanzialmente un nuovo tubo che gli porta dati. O che consentirà il deflusso di dati. Stiamo parlando di terabit o ancora di più? Stiamo parlando di Terabit. Ci sono poi altri due progetti che atterreranno in Italia, si chiamano Simiwi 5 e AAE1. Considerate che solo questi due nella somma superano i 60 terabit al secondo. Pazzesco, eh? È assolutamente pazzesco se consideriamo che in questo momento non è facile stimarli, ma riteniamo ragionevole che arrivino circa in Italia, nella parte del sud Italia, dal Far East 15 terabit al secondo, e sono il cumulato di anni di lavoro. Quindi in poco tempo ci sarà un'esplosione proprio della connettività. Ci sarà un'esplosione. A questi microfoni credo che qualche anno fa abbiamo detto più volte che ogni 7 anni si decuplicava, nessuno ci credeva. Forse abbiamo sbagliato, ma in difetto. In difetto. Questo cosa vuol dire? Che nonostante i dati dicano che comunque il nostro paese dal punto di vista dell'economia digitale non sia così evoluto, o comunque non è a livello dei paesi del nord Europa o di altri paesi nostri vicini, però qualcosa si sta muovendo. Se ti riferisci all'ultimo report, il DESI della Comunità Europea, ho sentito dei commenti in questi giorni e mi viene da ridere. Gente che continua a dire che l'Italia è arretrata perché il vero motivo è che non c'è domanda. Io non l'accetto più, non ce la faccio veramente più. Cioè non è vero. Ma assolutamente no. Qualcuno mi deve spiegare perché in Italia non ci dovrebbe essere domanda, in altri paesi sì. L'italiano è forse antropologicamente diverso dal francese o dallo spagnolo o dall'inglese? No. Qualcuno mi dice, ma lo è culturalmente? Beh, forse siamo culturalmente diversi dal tedesco o dall'inglese, ma non siamo diversi dallo spagnolo e dal francese. Guardate in che posizione sono la Francia e la Spagna, che però a differenza dell'Italia hanno delle reti in fibra ottica molto più capillari rispetto a quelle che abbiamo noi. Da quando in Italia, devo dire grazie al governo Renzi, il progetto di cablaggio estensivo sulla rete d'accesso del paese è iniziato, abbiamo guadagnato delle posizioni. Cioè, questo è indiscutibile. Perché, e siamo, cioè, di fatto questo progetto è quasi non partito, nel senso che ci sono state le gare e non... Diciamo che però questo progetto è vero che non è partito, ma ha stimolato invece una serie di operatori privati, certo, che sono partiti per la paura che gli venisse rosicchiata una quota parte di mercato. Quindi ad ogni modo un movimento c'è stato. Quindi questo è positivo. Molto positivo. Cioè, tu sei ottimista nel diciamo in una prospettiva di 3-4, perché diciamo che questo progetto prevederebbe che al 2020 ci sia una copertura del territorio in quelle zone un po' più sfortunate molto capillare. Non credo che i tempi saranno rispettati, quelli dichiarati, ma semplicemente perché ci sono state tutta una serie di fasi e di ritardi legati a scaramucce nelle quali non voglio più entrare nel merito. Però sì, sono ottimista. La direzione è quella giusta. Vorrei, come ho sempre detto, che fosse un soggetto pubblico a fare un'infrastruttura spenta. Purtroppo ogni tanto ci sono le tentazioni di accenderle. Spero che Open Fiber diventi sempre più pubblica, sempre un po' meno Enel, e la rete rimanga spenta, giusto per essere chiari, ma sì, sono assolutamente ottimista. Sì. Oh, quando Bonannini dice spenta, non vorrei che qualcuno fraintendesse, non è che poi è una cosa che non funziona, cioè spenta vuol dire è un po' come l'autostrada, uno deve fornire il servizio di connettività e poi i camion e le automobili ce le mette qualcun altro. È per fare in modo che ci sia davvero il libero mercato e la concorrenza, esatto. Cioè l'infrastruttura deve essere messa a disposizione dal soggetto neutrale e poi i vari attori utilizzano quell'infrastruttura per fare i loro servizi e competere. Dunque, almeno nelle città sta già succedendo, devo dire che quasi tutti gli operatori privati stanno posando fibra ottica. Questo è un fenomeno, è più immagine, sai che tra alcuni giornalisti si dice a volte invece che fiber to the home, fiber to the press, cioè annunci che poi vengono rivolti soprattutto alla stampa, perché la stampa parli di questi progetti, ma poi nella realtà non si scava tanto. Invece cosa sta succedendo? Allora, diciamo che la verità come sempre sta nel mezzo, ma la cosa positiva è che almeno se ne parla, perché a suon di andare sulla stampa poi qualcosa viene fatto. Quindi no, nella realtà in alcune città, ovviamente nelle più importanti, si sta scavando, ma ora con l'assegnazione dei lotti di Infratel si inizierà davvero a scavare anche non solo nelle città più importanti, ma in quelle a cosiddetto cosiddetto digital divide. Cioè, a proposito di scenario e a proposito di cose che accadranno nelle città, la fibra ottica sarà sempre più pervasiva e paradossalmente questo creerà la, adesso la dico forte così ci capiamo, creerà la scomparsa degli operatori di telefonia mobile. E uno dice, ma come? Beh, direi, allora, dovremmo definire che cosa si intende oggi per operatore di telefonia mobile. Se per operatore di telefonia mobile tutti ci immaginiamo l'operatore GSM degli inizi degli anni 2000 o GPRS che si occupava principalmente di voce in mobilità, direi che sì, quel modello di business ormai è destinato ovviamente a finire, anche perché gli operatori sono sostanzialmente tutti notificati in Europa, il regolatore impone le tariffe e quindi la possibilità di crescere fatturati va cercata da altre parti. Quindi gli operatori mobili che cosa hanno iniziato a fare? Hanno iniziato ad entrare nel terreno di quelli che erano gli operatori fissi. Molti di questi si sono comprati reti di accesso in fibra ottica in diversi paesi d'Europa. Altri ex incumbent che avevano separato la parte di telefonia mobile l'hanno poi a fisarmonica rimessa dentro la società che faceva anche telefonia fissa, poi l'hanno ritirata fuori, poi l'hanno rimessa dentro. Il risultato è che tutti fanno internet. Il risultato è che tutti quelli che prima facevano solo mobile ora non fanno più solo mobile, ma fanno anche una parte di, chiamiamola così, di rete fissa, di accesso ad internet proprio fisso. Sì. Comunque mi sembra di capire che la prospettiva sia: tutti offriranno e già offrono di fatto accesso alla rete internet, poi che una cosa sia fissa o mobile quasi quasi non conta. Se pensi che con il 5G la dimensione delle celle sarà praticamente paragonabile quasi a quella di un appartamento o poco più grande, si capisce che alla base solo nelle città. Sì. Alla base di quella cella dovrà arrivare della fibra ottica, come la vogliamo definire questa? Una rete mobile o una rete fissa? Dipende dall'ascoltatore come gli piace di più. Io ricordo, molti anni fa ho lavorato per un operatore mobile, ormai quasi 20 anni fa, ma i dati non sono cambiati, cioè il 60% delle telefonate che si facevano da un terminale mobile nella realtà venivano fatte in un luogo che era o la casa o l'ufficio. A questo punto, nel momento in cui a casa o in ufficio uno ha la sua connettività distribuita wireless che fa capo poi ad una rete fissa, se utilizza un terminale mobile senza far pubblicità, che sia un tablet o un... Di che cosa stiamo parlando? Di telefonia mobile o di rete fissa? O usa il cordless. Di cosa parliamo? Cioè, per me è sostanzialmente un operatore di telecomunicazioni che oggi fa tutto. Certo, quindi la prospettiva è avere le città piene di qualcosa che è una sorta di hotspot, così come ce l'abbiamo in casa col Wi-Fi. Diciamo che ci saranno delle coperture fatte con varie tecnologie, ci sarà il 5G, ci sarà l'LTE, ci sarà il Wi-Fi stesso, sì. Ma alla base di ognuna di queste cose è quella fibra ottica pervasiva che dicevi tu prima, perché la quantità di dati con l'Internet of Things, i dati in mobilità circoscritta, quindi all'interno di pochi metri di un'abitazione o di un ufficio, stanno talmente aumentando che non può che esserci una rete a questo punto fissa, certo, sottostante. Quindi il futuro è rete fissa che di fatto diventa mobile, ma ogni 50 metri. Esattamente così. Con tanti hotspot. Ma questo vuol dire che anche il concetto di licenza di uno spettro di frequenze non avrà più senso, perché se io ho hotspot distribuiti grazie a questa connettività in fibra ottica così diffusa e pervasiva e potrò utilizzare varie frequenze, e ne vedremo delle nuove nei prossimi anni, ma che interesseranno poco al consumatore, tutto quel concetto al quale eravamo abituati con le gare per il 3G che fruttavano miliardi per lo Stato va a scomparire. Beh, perché anche dal punto di vista regolatorio, ovviamente negli anni abbiamo visto la situazione è cambiata notevolmente. Se tu ti ricordi i miliardi di euro per le famose frequenze UMTS, e se non vado errato parlavamo di 4 miliardi di euro grosso modo a operatore, cioè sono delle cifre che non hanno assolutamente oggi più senso. Perché appunto il valore dell'asset, quindi dello spettro, con questa fluidità, con questa dispersione dell'utenza non hanno più valore. Sempre rimanendo nell'ambito cittadino, perché ovviamente stiamo ragionando di un ambito dove la connettività già oggi è molto diffusa, ma lo sarà sempre di più e le cose succedono in modo molto veloce, quindi immaginiamo fra 3, 4, 5 anni che sono dietro l'angolo. Questo vuol dire anche che nuovi operatori entreranno a far concorrenza a quelli che oggi consideriamo gli operatori di telefonia mobile, perché se io sono un operatore di rete fissa e ce ne sono decine e decine, perché noi siamo abituati ai nomi più importanti, ma in Italia ce ne sono tantissimi di operatori di rete mobile, di rete fissa, se io ho una rete fissa che ogni 50 metri può mettere un hotspot su qualche frequenza, divento un operatore mobile. Corretto, questo è quello che già sta succedendo in altre parti del mondo, quindi non vedo perché non dovrebbe succedere in Italia. La risposta è sì. Quindi il concetto di rete licenziata, cioè di frequenza licenziata e di frequenza libera, che alcuni dicono ma la mia essendo licenziata è più protetta, invece quella è... Qui si entra in un ambito legato alla qualità e quindi chiaramente una frequenza licenziata la utilizza un soggetto solo e quindi c'è meno possibilità di interferenza, di conseguenza la qualità è superiore. Una frequenza non licenziata è una frequenza che chiunque può utilizzare e purtroppo il fenomeno dell'interferenza è un fenomeno noto, è possibile. Sì. Se guardiamo al mondo della fibra ottica, quali sono i paesi più interessanti nel mondo? O almeno in Europa, senza andare in Giappone? Più interessanti da che punto di vista? Come dinamicità? Direi che ultimamente le Repubbliche Baltiche sono state, l'Estonia in particolare, è stata in una posizione di leadership, ha praticamente la totalità del territorio cablato, comprese le zone rurali e alcune fattorie disperse chissà dove. E dopodiché, come sempre, i paesi nordici, quindi Svezia, Danimarca, Finlandia, ovviamente dicono sempre la loro, e l'Olanda, perché unisce a un'infrastrutturazione, un tessuto di industria, di multinazionali in giro per il mondo, che ovviamente la pone sempre ai vertici delle classifiche. Certo, ricordo e lo ripeto a costo appunto di ripetermi che il sindaco di Amsterdam disse: qui noi abbiamo 4 importanti hub. Immaginate un sindaco di una città italiana, se potesse dire una roba del genere. Allora, il porto, e su questo non abbiamo dubbi, l'aeroporto, e su questo non abbiamo dubbi, la borsa, e anche su questo qualsiasi cittadino direbbe certo, sono degli hub naturali, e l'internet exchange. Assolutamente. Pochi sindaci italiani direbbero una cosa del genere. Perché il sindaco italiano spesso non sa neanche che cos'è un internet exchange. Certo, anche perché l'unico, diciamo, importante sta a Milano, gli altri sono piccolini. E vorrei concludere a proposito del internet exchange. Tu sei uno degli, come dire, ideatori di una infrastruttura che è già nata in Sicilia, giusto? Sì, si chiama OM, Open Hub Med, è sostanzialmente operativa, dobbiamo solo fare il lancio ufficiale, è un consorzio di molti operatori. L'idea è rilanciare il sud dell'Italia ed in particolare la Sicilia, perché molti dei cavi, quelli che citavo anche prima, che porteranno tanta capacità che arriva in particolare dal Far East, arriveranno lì. Quindi fare un internet exchange in Sicilia significa evitare che soggetti che si vogliono scambiare dati debbano continuare ad andare ad Amsterdam, a Londra o a Francoforte. Quindi l'idea è fare quello che il sindaco di Amsterdam diceva prima, cioè un asset importante per la sua città, farlo in Sicilia, quindi un asset importante per il nostro paese, per il sud del nostro paese. Dicevo che volevo concludere, in realtà c'ho una domanda di riserva che è veramente l'ultima. A proposito dell'indice di cui avevamo parlato prima, Tu prima mi dicevi una cosa che mi sembra interessante. Non è vero, secondo te, che a noi mancano le competenze digitali? Cosa che si dice spesso e un pochettino forse è vero, perché molti imprenditori mi dicono: io fatico a trovare persone che si occupano di questi temi digitali. Tu non, dici che non... Non sono assolutamente d'accordo, ormai lavoro per multinazionali da più di 20 anni, quindi mi confronto con tutti i miei equivalenti di tutta Europa e non solo, degli Stati Uniti eccetera. Non credo che da un punto di vista della formazione in Italia siamo indietro ad altri, non lo credo. Neanche da un punto di vista culturale, socioculturale. Io ricordo a tutti che agli inizi degli anni 2000 eravamo al mondo gli unici ad avere il primo e il terzo operatore mobile. Siamo degli addicted, siamo degli utilizzatori di digitale quotidiano. Abbiamo tutti in mano sempre uno smartphone o un tablet o a casa un PC. Secondo me il vero problema è la qualità di quello che riusciamo a fare. Faccio un esempio molto banale. È inutile che mi si dica che nel 98% delle abitazioni italiane c'è la banda larga, quando con questa dizione si intendono 2 megabit al secondo, e asimmetrici. Mi si dice che c'è la banda larga ma non c'è la domanda. Ma dipende anche dalla qualità con cui con questi 2 megabit asimmetrici riesco a fare delle cose. Se non ci riesco, ovviamente poi non utilizzo più quella cosa. Una videoconferenza non ce la fai, perché essendo asimmetrica l'upload non funziona. Se devo scaricare un film a 2 megabit al secondo, alcuni gigabit, ci metto una certa quantità di tempo. Se a casa avessi dei 100 megabit ce ne metterei molto meno. Quindi la qualità del servizio che ovviamente ho ne determina l'utilizzo. Maggiore la qualità, maggiore l'utilizzo, ed è quello che succede, senza dover tirar fuori la Danimarca o la Svezia, è quello che succede in Francia e in Spagna, che credo che da un punto di vista di dimensione del paese, di cultura, di stili di vita, sono assolutamente equivalenti agli italiani. Certo. Bene, grazie a Simone Bonanini per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti voi, buon lavoro. Adesso il tema dei temi, perché sta diventando sempre più importante la cyber security, l'attenzione che dobbiamo avere già dal nostro computer di casa, dal nostro smartphone, ma sempre di più nelle aziende, alla sicurezza dei dati, alla sicurezza delle informazioni, alla sicurezza delle transazioni. Vi presento Corrado Giustozzi, che è un esperto di security, di sicurezza. Bentornato a 2024. Grazie a voi, bentrovati. Tu sei anche membro dell'ENISA. Vorrei partire da qui, perché stiamo parlando di una, non so se chiamarla istituzione, organizzazione, gruppo di lavoro europeo. È un'agenzia. Un'agenzia. Ha dignità di agenzia europea, ha sede in Grecia, ma per motivi ovviamente diplomatici. Certo, bisogna mettere un po' di qua, un po' di là, distribuire. Nello stesso momento in cui la Grecia vinceva il diritto di ospitare ENISA, l'Italia vinceva il diritto di ospitare l'agenzia sulla salute del cibo, quella che sta a Parma, che fanno un lavoro molto più divertente, devo dire. Che cosa fa ENISA? Di allora, cosa si occupa? Il nome sta per European Network and Information Security Agency, cioè l'agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza delle reti e delle informazioni. In due parole è l'agenzia che fa la sicurezza dell'Europa dal punto di vista appunto delle reti e dell'informazione. Quindi è quella che emette le regole, che scrive le linee guida, che aiuta gli stati membri a creare le infrastrutture o a organizzarsi, e in tempi abbastanza recenti ha anche assunto un ruolo molto operativo. Al di là, per esempio, è l'organizzazione che conduce le esercitazioni con cui tutti gli stati membri ogni anno fanno una simulazione di attacchi per vedere se sono qual è il loro livello di reazione e di capacità di risposta. Ma ENISA è anche l'agenzia che raccoglie o raccoglierà le segnalazioni di incidenti che la nuova, il nuovo regolamento europeo sulla privacy obbliga tutti coloro che trattano dati personali a denunciare. Queste denunce vanno fatte alle agenzie nazionali che poi le trasmettono all'agenzia europea che è appunto ENISA, e la stessa cosa succederà invece con la nuova direttiva NIS, Network Information Security, che è, anche questa sta entrando in vigore più o meno contemporaneamente a quella della privacy, e obbligherà tutti gli operatori di servizi essenziali, per cui trasporti, sanità, finanza, eccetera, allo stesso comportamento. Ah, questo è interessante perché molto spesso noi commentiamo attacchi informatici che avvengono prevalentemente negli Stati Uniti, e se uno guarda le cronache, legge o sente le cronache, potrebbe sembrare che solo gli Stati Uniti vengano attaccati, perché c'è un obbligo preciso, cosa che fino ad oggi c'era forse per alcune cose in Europa, ma dal maggio, comunque dalla primavera del prossimo anno, sarà obbligatorio su un certo tipo di attacchi per un certo tipo di aziende. Quindi ci sarà una cronaca mensile abbastanza ricca. Questo è straordinariamente importante, infatti, per due motivi. Primo, proprio per correttezza e trasparenza nei confronti delle persone. Certo, cittadini e consumatori. Cittadini, esatto, certo. E consumatori, che hanno il diritto di sapere se le aziende, le banche, le istituzioni presso cui, diciamo, sono clienti, consumatori, hanno subito o no attacchi informatici che possono avere, diciamo, impatto su di loro. Questo soprattutto per quanto riguarda la privacy. Ma poi proprio perché manca in Europa una statistica, una conoscenza reale di qual è il fenomeno. Voglio dire, abbiamo statistiche sulla mortalità per tumore, sugli incidenti stradali, e questo aiuta a migliorare le difese, la prevenzione, la cultura. Non abbiamo dati di prima mano sugli incidenti informatici, perché è chiaro che un'azienda che subisce un attacco non ha molto interesse andare a raccontare ai propri azionisti, clienti o al mercato di essere stata attaccata, e quindi di solito lo tiene nascosto. È già tanto se magari fa denunce alle autorità, non alla polizia, ma per altri fini. Invece queste normative impongono a tutta una serie di operatori importanti, compresi i fornitori appunto di telecomunicazione, di denunciare gli incidenti. Attacchi che avvengono, se non quotidianamente, molto spesso. Quotidianamente, cioè, anzi direi notturnamente di solito. La situazione è preoccupante, eh? Beh, la situazione è, diciamo, effervescente, nel senso che questo mondo è molto attivo. Gli attacchi avvengono, adesso, scherzi a parte, sì, con continuità. Tantissimi attacchi, diciamo, di puro disturbo, quindi tanto rumore ma poca efficacia, che vengono filtrati dai sistemi automatici, diciamo non se ne accorge nessuno. Sì. Ma una serie di attacchi importanti condotti a vario scopo da varie organizzazioni, perché quelli che conducono gli attacchi sono non sono l'hacker, quello dei film di Hollywood coi brufoli che sta in camera da letto con la felpa col cappuccio, no, quello non esiste. Sì. Sono soprattutto la criminalità organizzata, che ha imparato molto bene a cavalcare l'onda delle tecnologie, si avvantaggia per esempio della transnazionalità della rete, mentre è molto facile per un'organizzazione criminale commettere reati attraversando confini che su internet non ci sono. È difficilissimo per le forze dell'ordine correre appresso, perché ci sono le regole nazionali che non possono essere travalicate ai confini, quindi ci sono meccanismi di cooperazione internazionale che sono molto molto, diciamo, poco fluidi, ecco. Sì, da questo punto di vista sei d'accordo con quelli che dicono stiamo vivendo un momento storico in cui i cattivi sono più avvantaggiati nel mondo digitale rispetto al mondo fisico, dove la dimensione geografica è importante? Sì, sono d'accordo, anche se in realtà il cattivo è sempre avvantaggiato per definizione, perché è lui alla scelta della mossa. Certo. Lui decide quando, dove, come colpire. Chi difende non lo sa, e quindi devi difendere tutto contemporaneamente e quindi fa un lavoraccio. Quindi il cattivo è per definizione avvantaggiato. Poi nel mondo digitale c'è un fenomeno di demoltiplica, no? Di leva, per cui il cattivo riesce a fare tante cose cattive o cose molto cattive con poco sforzo, molto meno sforzo di quello che che avrebbe nel mondo reale, cioè portare via il deposito di Paperone con un chilometro cubo di monete è complicato. L'equivalente virtuale si trasporta in un attimo. Certo. Se guardiamo a questa situazione, guardando anche all'Italia e alla criminalità italiana, si è evoluta digitalmente anche in Italia la criminalità o sconta quel ritardo tecnologico che vediamo e osserviamo su tutta la popolazione e quindi le organizzazioni criminali digitali, quindi le grandi organizzazioni di hacker, sono soprattutto in altri paesi? Guarda, ci sono dei cartelli, dei raggruppamenti temporanei di impresa efficacissimi nel mondo della criminalità. Anziché imparare, cioè il criminale nostrano che sa fare bene certe cose, per esempio riciclare denaro o cose del genere, non impara a attaccare server per rubare carte di credito, paga qualcuno che lo fa. Ci sono scambi internazionali per cui ci sono queste bande transnazionali in cui i tecnologi sono tipicamente dei paesi dell'est che sono molto bravi, quelli che riciclano il denaro sono di altri paesi, quelli che fanno altre cose sono, e collaborano su internet, ognuno mettendo a fattor comune la propria specialità, con un risultato complessivo che è di grande efficacia. Purtroppo le forze dell'ordine non sono così efficaci. Certo, ma per motivi di perché bisogna struttura. Seguire le regole, perché i buoni devono seguire le regole e le regole sono complicate e un po' farraginose. Cioè ci vorrebbe la license to kill dei servizi segreti? Esatto, in un certo senso sì, però ovviamente è impensabile poterla ottenere. Certo, tu sei preoccupato della situazione delle imprese? Io ricordo che il CLUSIT, che è l'Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica, o due o tre anni fa, ma poi è un concetto che ricorre, ma mi ricordo che in un recente rapporto venne proprio scritto: stiamo assistendo al più grande furto di proprietà intellettuale della storia, un sacco di aziende che manco se ne stanno accorgendo e stanno subendo attacchi. Sì, questo è vero. Anche qui i dati veri di questo fenomeno non si conoscono, per quello che dicevamo prima, però la sensazione è che ci sia per motivi proprio di carenza culturale delle aziende, non c'è tanta attenzione verso questo tipo di problema, soprattutto in Italia. L'Italia è una fucina di piccole e medie imprese che hanno proprietà intellettuali strepitose, di cui magari neanche loro si rendono conto, ma dall'azienda che ha inventato un nuovo modo di fare le piastrelle di ceramica a quelli che fanno quella particolare molla che però serve nei motori della Ferrari o della Maserati. Questi sono dei valori enormi e queste aziende spesso non hanno il concetto di quanto è importante il valore intellettuale di quello che fanno, e rubare, diciamo, piani, progetti da queste aziende è purtroppo relativamente facile. Poi magari troviamo qualche prodotto, diciamo, dell'estremo oriente che ha costi abbattuti molto simili. Molto simili. Visto che proprio quelle aziende si rivolge tutto quel mondo che ha oramai quasi una parola che viene ripetuta: cloud. Tu sei una piccola azienda, vai in cloud e risolvi tutti i tuoi problemi. Tu che sei un esperto di security e lavori con gente esperta di questo tema, di fronte all'esplosione, perché comunque stiamo parlando di numeri che stanno crescendo, del cloud, come ti senti? Ma a costo di andare un po' controcorrente, io penso che un cloud gestito bene, quindi da uno che lo sa fare, è certamente più sicuro di un sistema aziendale gestito da uno che non lo sa fare. Cioè l'azienda che fa bulloni, ma perché deve anche essere esperta di informatica e saper tenere i suoi sistemi informativi a prova di hacker? Meglio che gli dia da gestire a qualcuno che lo sa fare meglio. Anche per un altro motivo, perché se io gestisco le mie cose in cloud, le mie cose significa soprattutto quello che devo far vedere fuori, non certo i miei segreti industriali, ma il mio sito web di e-commerce, è meglio se lo do fuori, perché così evito di dover aprire la mia rete per fare entrare nella mia rete i clienti e quindi faccio andare i clienti da un altro. Quindi tu sei abbastanza favorevole a questa evoluzione. Perché dici che sei controcorrente? Perché, diciamo, tantissime persone dicono: no, il cloud è il male, perché il cloud perdi il controllo, dai in mano le cose a qualcuno. Io credo che che in realtà il compromesso sia sempre la soluzione migliore, cioè scegliere un bravo fornitore e decidere cosa mettere in cloud. Io non penso che sia necessario mettere tutta la propria azienda in cloud. Le cose che hanno necessità di essere viste da fuori, ripeto, l'e-commerce, la vetrina, anche la mail, perché tanto alla fine la mail gira fuori dell'azienda, quelle mi sta bene darle fuori a uno che le sappia gestire. In casa mi tengo le cose che nessuno deve vedere, quindi la cosa importante è la consapevolezza, non diciamo senza criterio decidere cloud sì o cloud no, un po' di pancia, sì, ma facendo un'analisi del rischio, scusa la parola grossa, però alla fine è quello che facciamo, e quindi questa cosa la metto in cloud e quest'altra non ce la metto. Sì. Tra poco ti faccio una domanda sulla email, quindi preparati, non ti dico mettiti le cuffie, perché ce le hai già le cuffie in testa, però volevo, sempre tornando anche a quello che dicevamo poco fa, cosa sta cambiando in bene o in male, in bene e in male, sia nel panorama internazionale, quindi considerando anche le istituzioni internazionali, gli stati, qua una delle cose che si sentono dire più spesso, cioè attacchi contro gli stati, addirittura nel caso delle elezioni americane contro una campagna elettorale, ma cosa sta cambiando anche per quanto riguarda le aziende? Ma sta cambiando che, come diceva un famoso film, il gioco si sta facendo serio, no? Si sta facendo duro e i duri cominciano a giocare, per cui non è più, diciamo, quel mondo un po' naif che era nella testa dei primi che hanno sviluppato internet, che erano ricercatori universitari e che non hanno dotato internet di meccanismi di sicurezza perché non ce n'era bisogno, perché internet serviva a condividere conoscenza per il bene di tutti, no? Una cosa un po' hippie, ma d'altronde internet è nata nel 68 in California quando c'era il movimento hippie, l'LSD e un sacco di altre cose, no? Adesso no, ci facciamo altre cose. E il problema è che molto rapidamente, rispetto al tempo fisiologico di maturazione culturale, abbiamo utilizzato internet anche per esempio accedere da remoto a tutta una serie di infrastrutture che prima non erano accessibili da remoto, voglio dire una diga, uno scambio di un treno, una centrale di energia. Prima, per diciamo manomettere la centrale, bisognava entrare fisicamente dentro e andare sulle manopole, no? Adesso, per motivi ovviamente di economia, di efficienza eccetera, tutte queste cose sono gestite da remoto, quindi accessibili via internet in qualche modo. È accessibili via internet, esatto, con tutta una serie di protezioni che però diciamo sono un po', diciamo, di vecchia generazione. I cattivi, per quello che dicevamo prima, sono sempre avanti, quindi ci siamo accorti un po' all'improvviso, ci siamo svegliati da questo, diciamo, sogno nel quale pensavamo che il mondo fosse fatto di persone tutte in buona fede, no? E in cui c'è la riga gialla per terra, dice non attraversare, e nessuno attraversa, sì. E abbiamo scoperto che invece bisogna metterci il filo spinato. Certo, ma di fronte a quelli che dicono allora a mettere tutto su internet e digitalizzare le nostre imprese non è una cosa buona, perché se poi il mondo si trasforma così come lo hai descritto, con gli hacker che ti attaccano, che ti fanno fermare l'azienda, non va mica bene. Ho capito, però quando i fratelli Wright hanno fatto il primo volo, la gente diceva no, ma questa cosa, se Dio avesse voluto che noi volassimo ci avrebbe fatto le ali, ma adesso figurati quanto è pericoloso volare, e poi le automobili, poi no, è inevitabile, questo è un movimento inevitabile. Fare il contrario è antistorico, oltre che antiefficace, antieconomico, antitutto. Quindi no, bisogna soltanto farlo al modo giusto. Giusto. Il modo giusto è sicuramente fastidioso e costoso, ma d'altronde noi abbiamo imparato a metterci le cinture di sicurezza in auto, no? Sono fastidiose, sicuramente almeno all'inizio erano costose, perché la macchina con le cinture di sicurezza o con l'ABS costava di più, però adesso non potremmo farne a meno. Certo. L'email... Ecco, tu sconsigli di utilizzare i servizi, perché questo è un tema che mi interessa molto. Io sono alla ricerca di una bella soluzione personale, perché ho ovviamente la mail aziendale, che è una mail ben fatta, i nostri tecnici sono molto bravi, protetta, però molti nella vita di tutti i giorni a livello personale utilizzano servizi gratuiti di vario genere. A livello di sicurezza, poi uno potrebbe dire, ma io non ho niente da nascondere, qui vale sempre la regola, benissimo, se non avete niente da nascondere, datemi una copia di casa vostra e così si sa mai che debba intervenire. Datela alla polizia, si sa mai, no? Quindi questa è una scusa che non va presa in considerazione. Sulla mail che cosa consigli o sconsigli? Ma allora, è chiaro che Diciamo, la premessa è che quando c'è un servizio gratuito, il prodotto sei tu. E questo è chiaro. Quindi tu paghi con qualcosa di te il diritto di avere un servizio gratuito, che poi sia la possibilità di mandarti la pubblicità o di profilarti o cose del genere. Sì. Detto questo, se uno lo sa e lo usa consapevolmente, non c'è nessun problema. Anche lì ci sono gestori, diciamo, un po' più grandi e probabilmente più seri, altri meno. Ma a livello di security? A livello di sicurezza? Allora, la battuta è, secondo me devi decidere da chi vuoi farti intercettare, dai russi, dagli americani, dai cinesi. Una volta che hai deciso, stai in pace con te stesso. No, scherzo. È chiaro che i grandi, i grandissimi, sono certamente molto attenti alla sicurezza, sono anche molto bravi, investono anche un sacco di soldi, però proprio per il fatto di essere molto grandi sono anche più sotto il mirino di chi vuole rubare qualcosa. Allora, se voglio fare il colpo grosso, cerco di rubare a una banca centrale e non alla cassa di risparmio di piccolina, sì, eccetera. Sì, sì. Quindi è tutto proporzionato. La domanda vera è se mi posso fidare del gestore. Allora, abbiamo avuto negli anni scorsi rivelazioni vere, esagerate, non esagerate, no? Non le chiamerei collusioni, diciamo di collaborazioni, no? Fra una serie di aziende americane e il governo americano per quanto riguarda, per esempio, le intercettazioni più o meno lecite, eccetera. Al di là di tutto, possono essere, ripeto, esagerate, non esagerate, però il rischio comunque c'è. Adesso, voglio dire, se Trump, con le buone o le cattive, va da, faccio un po' di nomi, Amazon, Google, Yahoo, Microsoft, eccetera, gli dice dammi informazioni un po' più che lecite sulle mail, non credo che si possano rifiutare, no? Certo. Questo di per sé non è né bene né male, fa parte del gioco, sono un po' realista da questo punto di vista, l'importante è saperlo. Certo. Allora, uso la mail gratuita americana o russa o cinese, lo so che potrebbe essere magari compromessa e quindi non ci metto delle cose che non vorrei che venissero divulgate. Benissimo, però sia col tuo aiuto o con l'aiuto di altri, mi impegno a fare un elenco di non esaustivo, un elenco che poi magari aggiorneremo, sul nostro sito internet di servizi mail a pagamento, perché abbiamo detto se una cosa è gratis, il prodotto, lo scambio sei tu in termini di dati e profilazioni, se no paghi. E io invece sono disponibile a pagare qualche decina di euro all'anno per avere un servizio di posta elettronica che sia un po' più sicuro, comunque un po' più riservato, un po' più privato. Facciamola questa lista. Ci stai? Sì, volentieri. Perfetto. Password. Dove salvi le tue password? Anche questa è una domanda che faccio a tutti gli esperti di security. Beh, questa è forse la domanda veramente primordiale. Allora, intanto, perché questa domanda ha molto senso? Perché è importante che le password siano tutte diverse. La gente, diciamo, questa piccola regola non la non la usa perché è scomodo. Tantissime persone usano la stessa password per tante cose, perché in realtà anche in buona fede dice così non sono costretto a scriverla, perché una me la ricordo, 20 non me le ricorderei, certo. Una me la ricordo, uso la stessa. Questo però se ti bucano da una parte, esatto, questo è gravissimo, perché abbiamo assistito in questi anni a attacchi mirati proprio a rubare le password, milioni di password, proprio i file con le password rubate. È chiaro che se io dopo la stessa password in 7-8 posti diversi, in un colpo solo diciamo violano tutti quanti gli account, quindi le password devono essere tutte diverse, e questo implica che ce le dobbiamo scrivere, memorizzare da qualche parte. Allora, ci sono dei password manager, delle applicazioni che memorizzano in forma sicura le password. Io sono, per diciamo vocazione prima ancora che per mestiere, un po' paranoico, ma quelli che fanno il mio mestiere sanno che la paranoia è una virtù e non un difetto, certo, nel nostro campo. Mi fido molto poco dei password manager, perché non sono sicuro che siano davvero sicuri. Cioè, perché tu dici, se mi bucano il password manager, mi bucano tutte le password. Ma anche, voglio dire, io sono come te, sono d'accordo. Faccio un passo più là, ma se io volessi rubare le password di un sacco di gente, che cosa farei? Scriverei un password manager gratuito, lo metterei sull'App Store e faccio in modo che mi manda le password di tutti. Come faccio a essere sicuro che questa cosa non succede? Lo posso sapere soltanto se riesco ad ottenere... Se sei un genio lo fai anche a pagamento. Se lo faccio pagare, esatto. Ti frego le password. Esatto. Quindi non mi fido, soprattutto quelli gratuiti, perché non mi fido dell'autore, cioè che ne so che lui è davvero in buona fede, e allora preferisco evitarli. Ma anche perché secondo me sono più scomodi, soprattutto per il passo di mobilità, lo devo mettere sul telefono. Quindi cosa fai? Allora, le cose semplici spesso sono abbastanza efficaci. Allora, io cerco intanto di ricordarmi almeno le password più importanti di uso più frequente. Quindi quelle non le scrivi? Quelle non le scrivo, perché diciamo le genero con una regola che mi permette, una regola mnemonica che mi permette, diciamo, di ricavarla a partire da una serie di fattori che possono essere legati al servizio che sto adoperando, cioè quindi riesco, se me la dimentico, a ricavarla. Quelle che scrivo le scrivo veramente con la tecnica del pizzino, cioè in un file normale di testo, e le scrivo, non vorrei dire cifrate perché è una parola grossa, ma diciamo codificate, anche lì con una regola di trasformazione più o meno semplice che io mi ricordo, ma che insomma ottiene un risultato sufficientemente complicato. E poi un po' di sicurezza fisica, di solito le password le tengo su una chiavetta USB che è attaccata al mio mazzo di chiavi, e insomma spero di non perdermi tutto quanto. Allora, senza saperlo io ho fatto la stessa cosa. Ottimo, sei sulla buona strada per diventare un paranoico, però, quantomeno. Però devo ammettere che il mio file non è complicato come il tuo. Il mio file è protetto da una password, e qui uno dice quanto sicuro non è. Certo, anche questo ha un livello di sicurezza o di insicurezza, ma mi vorresti dire che se io riuscissi a rubare la tua chiave nel mazzo di chiavi, la chiavetta USB, e aprissi quel file, il file si apre, perché è un file, e vedo un testo confuso. Vedi dei caratteri strani che non sai bene come adoperare, e se provi, diciamo, a digitarli così come sono, diciamo, intanto sono abbastanza oscurati anche le password di cosa sono, quindi non è che c'è scritto password di Google, poi la password è, diciamo, oscurata, quindi... è un approccio un po' naif, però. La gestione personale delle password è un po' come, da un lato, la cucina, è anche un po' il rimedio per alcuni malanni. Adesso non sto dicendo la medicina, quella con la M maiuscola, perché ognuno ha un po' la sua ricetta, cioè quando prendo il mal di gola io faccio in un modo, tu ne fai in un altro, e non c'è una regola per tutti, ma soprattutto per la cucina. Come fai questa cosa? Ognuno ha la propria ricetta, perché uno ci aggiunge un po' di sale, un po' di... Più o meno sì, il rischio è quello poi di fare tutti quanti le stesse cose ovvie, no? Cose che succedono nel mondo fisico normale, cioè tutti quanti i ladri quando entrano a casa di qualcuno sanno che il primo posto dove guardare è nei cassettoni delle tapparelle e nello sciacquone del bagno, perché lì sono i posti dove la gente nasconde le cose di valore. Perché tutti quanti dicono nessuno penserà mai a questa cosa e tutti fanno lo stesso ragionamento. Ecco, il rischio che uno corre quando dice ho offuscato la mia password con una regola che nessuno indovinerà è che magari fai una cosa un po' banale, cioè scrivere al contrario non è sufficiente. Ecco. Ah certo. Un'ultima domanda e un'ultima considerazione sui social network. Visto che ci sono anche aziende che utilizzano i social network e ci sono anche aziende che scambiano informazioni sui social network, ad esempio scriversi tra colleghi su WhatsApp è sicuro? Che è vero che WhatsApp ha adottato un sistema di cifratura, di crittografia. Beh, diciamo che però WhatsApp non definirei proprio un social network. Tu dici social network è qualcosa, diciamo, in cui la comunicazione avviene da tutti a tutti o quantomeno da uno a un gruppo vasto di amici o anche in pubblico. Un WhatsApp è un po', diciamo, un po' meno di Facebook, certamente, un po' più forse di una telefonata. È un oggettino strano. Quindi a chi dice no, non va usato per le comunicazioni di lavoro perché ci sono dei sistemi, non ti preoccupi. Come prima con la mail, la mia preoccupazione vera è nei confronti del gestore. Cioè io sono abbastanza fiducioso che la crittografia di WhatsApp sia ragionevolmente robusta, è stata analizzata da esperti del cui giudizio mi fido, ha delle vulnerabilità rispetto ad altri eccetera, però diciamo talmente secondo me lievi che insomma mi fido abbastanza. È chiaro che magari non affiderei a una comunicazione WhatsApp un segreto di Stato, però roba anche piuttosto riservata. Per esempio le telefonate su WhatsApp sono ragionevolmente ben protette, tranne che contro il gestore, ma alla fine di qualcuno ti devi fidare. Ah, certo, oppure ti scrivi le cose da solo, oppure però, fai tutto da solo, però parlo io e tre amici miei e poi basta. Certo. Molto bene, grazie a Corrado Giustozzi per essere stato con noi, a presto, buon lavoro. Grazie, alla prossima. Questa settimana abbiamo un po' esagerato con le nostre interviste in versione integrale, interviste molto lunghe, molto interessanti, quindi abbiamo quasi un minuto, anzi un'ora e venti di trasmissione. Naturalmente tutto questo solo per la versione podcast del nostro programma, quindi grazie per aver scaricato o ascoltato in streaming questa edizione. Io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Grazie a tutti i nostri ascoltatori che continuano a scriverci, sono un po' indietro con le risposte, chiedo scusa. Ci risentiamo la prossima settimana, sempre il venerdì alle 22, domenica alle 13.30, oppure, come stanno facendo migliaia di persone, nella nostra edizione esclusivamente via podcast, via internet online. Ci risentiamo la prossima settimana.